Coffee Break Italian, Season 2, Episode 34. Buongiorno a tutti, io sono Mark. Ciao a tutti, io sono Francesca. E oggi ascoltate Coffee Break Italian e siamo molto contenti di essere qua ancora una volta con voi. Sì, con la nostra bella soap opera, La mia estate. Esatto, esatto. We are in episode 34 now of our second season and this means we are listening to the fourth episode of our soap opera, La mia estate. We hope that you're enjoying this. Of course, if you are enjoying it, let us know. You can head to the website. Just go to coffeebreaklanguages.com and look for Coffee Break Italian Season 2, Episode 34 and post a comment there. Or, of course, you can get in touch with us on Facebook, on Twitter, on Instagram or on YouTube. You'll find us everywhere. Sì. However, oggi, di che cosa stiamo parlando? Oggi ascolteremo un altro episodio della nostra soap opera. Ok, chi sono i personaggi di questa soap opera? Beh, il personaggio principale è Mia, la protagonista, la giovane ragazza scozzese o italo-scozzese. Il suo papà. Ok, un po' iperprotettivo, sì, no? Sì, abbiamo imparato bene questo aggettivo, iperprotettivo. Esatto. E poi c'è anche la sua amica. La sua amica, sì, Anna, la ragazza del campeggio. Anche la sua, la mamma di Anna. Sì, la signora Maria. Sì, forse, sì. Forse è un po' interessante per Riccardo. Sembra che qualcosa piano piano si stia muovendo. Oh, si stia muovendo. Oh, è interessante questa parola anche. Allora, c'è anche Giorgio. E anche Giorgio. Non sappiamo ancora molto di Giorgio. È un giovane studente di lingue, un amico di Anna, ma ancora non ha rivelato bene la sua personalità. Forse oggi è il giorno in cui Giorgio si rivelerà in tutta la sua bellezza. Vediamo. Now, before we go on, I just want to pick up on this J sound. We talked about Giorgio, giorno, and we talked about the fact that he was a giovane studente. Sì. Now, it's really important, if you're learning Italian, that you realize that G-I-O is not Gio. We've mentioned this before, I know, but just when we were talking about it there, Giorgio, giovane, giorno. The I is only in there to make your G sound J. And not go. Go, indeed. We know you know that, but if this happens to be the first lesson of Coffee Break Italian you're listening to, then hopefully that little tidbit of information will help you. I think it's time to get on with our story. Cominciamo. Mettiamoci al lavoro. Okay, before we continue with our soap opera, shall we remind our listeners where we left the protagonists of our story? Sì, una buona idea, Mark. E allora, se ti ricordi, nell'episodio precedente abbiamo lasciato Riccardo sotto la pioggia. Poverino. Sì, a riflettere sulla vita. Ti ricordi, ha fatto il suo monologo. Monologo, sì, esatto. E poi abbiamo anche visto che Maria ha accompagnato Riccardo a ritirare l'auto che aveva noleggiato per le vacanze. I due hanno chiacchierato un po' e hanno chiacchierato soprattutto del rapporto che hanno con le loro figlie. Certo. E Maria ha anche cercato di spiegare a Riccardo che deve lasciare Mia un po' tranquilla, un po' in pace. Sì, ha cercato di spiegare, cercare di fare qualcosa, again, using that to try to do something. Ha cercato di spiegare a Riccardo che, hai detto, deve lasciare Mia tranquilla, in pace. Ok, sì, è vero. Sì. Mia deve anche migliorare il suo italiano, non è vero? Sì, ricordi bene. E ovviamente lavorare al campeggio, dove c'è molto da fare. Esatto, ricordi bene, c'è molto da fare. E non dimentichiamoci di Giorgio. Hai ragione, sì. Ok, va bene. I think we're ready now for episode 4 of La mia estate. Vediamo un po'. 18, 19, 20. Ok, 20 tavoli, sono tutti. Oh no, però mancano ancora 30 sedie. Ah, ogni volta lo stesso problema con le sedie. O sono rotte, o sono sporche, o addirittura mancano. Uffa, io sono stufo, e poi con questo caldo... Dai, Giorgio, è quasi tutto pronto per il concerto di questa sera. Ormai resta poco da fare. Ragazzi, posso aiutarvi? I can go and get us all a drink, and then, Giorgio, if you want, I can give you a hand and get everything ready for the concert tonight. Oh no, I don't believe it. Sorpresa! Basta lavorare per oggi. Ho pensato di invitare a cena la mia figlia preferita. Papà, can't you see we are working? Stiamo lavorando. Oh sì, bravi, bravi. Continuate a lavorare. Voglio che tutto sia perfetto per il concerto di questa sera. Giusto, signor Riccardo? Sì, certo. Ah, ecco il suo ombrello. Ho sentito la sua voce dall'ufficio e mi sono ricordata del suo ombrello. Grazie mille, davvero. Allora, magari ci vediamo questa sera al concerto. Sì, deve assolutamente venire alla festa del campeggio questa sera. Ci sono dei musicisti bravissimi che riescono sempre a far ballare tutti. Ah, e poi ho riservato un tavolo per lei. Ah, lei è sempre così gentile. Non posso dire di no a un invito così. Ma hai notato anche tu? Ti riferisci a mia madre e tuo padre? Yes, they seem to be getting on quite well. Anche secondo me. Mia, dobbiamo escogitare un piano. What? Sì, escogitare. Significa elaborare, inventare un piano. Sai, da quando è morto mio padre, mia mamma ha dedicato tutte le sue attenzioni a me e al campeggio. Well, I'd like my dad to be happy too. And there's the added bonus that it would mean more freedom for me. È una bella serata d'estate. Dopo aver provato un ottimo aperitivo italiano e ascoltato della buona musica, Riccardo e Maria chiacchierano un po'. Maria, gentile come sempre, si offre di aiutare Riccardo a cercare la casa dei sogni in Italia. Cala la sera, l'aria è frizzante e le luci fanno da cornice a una serata davvero magica. Maria e Riccardo cominciano a ballare spensieratamente, sotto gli occhi increduli di Mia, Anna e Giorgio. I tre ragazzi sperano che questo ballo sia l'inizio di qualcosa di speciale e hanno già in mente molte idee per dare una mano al destino. Mia, ti va di ballare con me? Gli ospiti del campeggio sono un po' timidi. Forse se ci vedono ballare, anche loro balleranno. Sì, Giorgio. E poi mi piace molto questa canzone. Balli bene, Mia. Grazie, Giorgio. Ballo da quando sono bambina. Ma aspetta. Posso avere l'onore di un ballo con la mia bambina? Dad, don't do this now. I'm just dancing with Giorgio so that more people come onto the dance floor. I'm working. Ah, beh, se questo è lavorare. Cosa succede? Perché state urlando così davanti ai clienti? E lei, Riccardo, non si vergogna? Roba da matti. La serata, purtroppo, non è finita nel migliore dei modi. Riccardo, come al solito, non ha saputo controllare le sue emozioni e ha fatto l'ennesima brutta figura. Ora si sente imbarazzato e non sa come comportarsi. Mia è arrabbiatissima con suo padre e teme di poter perdere il lavoro al campeggio. Anche Giorgio ha la stessa paura e pensa di aver fatto qualcosa di sbagliato. Anna si trova in una posizione difficile, ma ovviamente è dispiaciuta per i suoi amici. Tutti vanno a dormire un po' amareggiati, ma domani è un altro giorno. Un altro episodio molto interessante. Sì, è vero, ma anche un'altra brutta figura da parte di Riccardo. Andiamo con ordine, però. Ok, ascoltiamo di nuovo la prima parte. As usual, we'll go back and listen to the first section and then we'll talk a little about what's involved in the language in that section to help you understand what's going on. So let's listen now to the first section. Vediamo un po'. 18, 19, 20. Ok, 20 tavoli, sono tutti. Oh no, però mancano ancora 30 sedie. Ah, ogni volta lo stesso problema con le sedie. O sono rotte, o sono sporche, o addirittura mancano. Uffa, io sono stufo, e poi con questo caldo... Dai, Giorgio, è quasi tutto pronto per il concerto di questa sera. Ormai resta poco da fare. Ragazzi, posso aiutarvi? I can go and get us all a drink, and then, Giorgio, if you want, I can give you a hand and get everything ready for the concert tonight. Oh no, I don't believe it. Sorpresa! Basta lavorare per oggi. Ho pensato di invitare a cena la mia figlia preferita. Papà, can't you see we are working? Stiamo lavorando. Oh sì, bravi, bravi. Continuate a lavorare. Voglio che tutto sia perfetto per il concerto di questa sera. Giusto, signor Riccardo? Sì, certo. Ah, ecco il suo ombrello. Ho sentito la sua voce dall'ufficio e mi sono ricordata del suo ombrello. Grazie mille, davvero. Allora, magari ci vediamo questa sera al concerto. Sì, deve assolutamente venire alla festa del campeggio questa sera. Ci sono dei musicisti bravissimi che riescono sempre a far ballare tutti. Ah, e poi ho riservato un tavolo per lei. Ah, lei è sempre così gentile. Non posso dire di no a un invito così. Ok, so this episode begins with Mia, Anna and Giorgio all preparing everything for the concert, il concerto, taking place later on in the evening. That's right, they're counting out the tables and making sure everything, well, that they have enough of them, aren't they? Sì, è vero, i tavoli. Tutto sembra in ordine con i tavoli, ma c'è un problema con le sedie, è vero, Mark? È vero, mancano ancora 30 sedie. Sì. There are 30 chairs missing. So that verb mancare, again, we've seen that in an earlier episode. Sì, I think in the very first episode of La mia estate. Esatto, esatto. It's a good verb because it is used in a few situations, but here we've got it very simple. Mancano 30 sedie. So there are missing 30 chairs. Sì. 30 chairs are missing. We've a passive form in English or something like that where the are missing, we use it with the verb to be. But in Italian we've just got a straightforward verb. Sì. Più facile così. Più facile, sì. E abbiamo sentito che appunto le sedie sono sempre un problema al campeggio oppure sono rotte. They're either broken. Sì, oppure sporche. They're dirty? Sì, o addirittura mancano. Addirittura, I like that word. Addirittura is like even. Sì. Or they're even missing. Sì, bravissimo. Addirittura. Ok. E possiamo anche dire che Giorgio non è di buon umore. Giorgio is not in a good mood. That's right. He uses a word that is, I think, is a very expressive word. Stufo. Stufo, bravissimo. He's fed up. And he uses a lovely Italian exclamation. Sì, I love it. He always says, uffa. I used to be told off as a child in Italy when I was complaining and saying uffa, uffa all the time. Especially when, I don't know if the right word in English is snorting, sbuffare, when you do Oh, right. You're huffing and puffing, I guess. Yeah. Snorting tends to come through your nose, but we'll not demonstrate it on the microphones. No. Well, it's sbuffare. Sbuffare. It's a very expressive word there, like uffa and like stufo. Sì. Excellent. Comunque, per fortuna che Anna è sempre molto energica e incoraggia Giorgio. That's right. Anna is always encouraging to Giorgio. She's always very energetic. She's got plenty of energy, has Anna. Sì. E lei dice anche, resta poco da fare. That's a great sentence, because It's got one of these da with an infinitive in there. Resta poco da fare. There remains little to do. Esatto. Or remains little to be done, I guess. Yeah. Sì. E anche Mia vuole aiutare. Però devo dire che ho notato Mia parla ancora molto in inglese, vero? Però sta anche provando a parlare un po' in italiano. Yeah, she says, posso aiutarvi? Can I help you? Sì. I think she's probably speaking a little more in English than her father, isn't it? Right? Mamma mia, sì. Riccardo does not even let her start relaxing and getting used to the new Italian life. Because he turns up unexpectedly, doesn't he? Sì, sì. E cosa dice? He says, basta lavorare per oggi. That's enough work for today. Basta is a useful word. Sì, we use it very often in Italian, especially when we are eating or drinking and you're full. And then you can say, no, basta, basta, grazie. Tell me something. I remember being at lunch in your house with your mum and dad, and your mum was serving me yet more of a delicious meal. And I was saying, basta, basta. It doesn't always work. People just still give you the things, don't they? Yeah, Italians seem not to understand this word for some reason. And it's a good thing, Emma, as yeah. well. Okay, so let's continue looking at this, because we've got Ricardo, who has arrived, wanting to take Mia out for lunch. But luckily, Maria arrives and she lays down the law, doesn't she? Sì, Maria dice, voglio che tutto sia perfetto per il concerto di questa sera. Right, so she's wanting them all to continue working, and she says this very interesting phrase here. And again, it's one of these ones that we're just touching on very sì. gradually, because we don't want to start introducing a completely new concept here. But she's saying, voglio che tutto sia perfetto. Now, sia is linked to the word è. So it's from essere. Sì. And it literally means is. Okay? It's just another form of the verb. Voglio che tutto sia perfetto. I want, literally, that everything is perfect for the concert tonight. Sì. Voglio che tutto sia perfetto per il concerto di questa sera. You might be wondering, though, what kind of verb this is, Francesca. Sì, questo è il congiuntivo, the subjunctive. The subjunctive. Now, that may well be ringing alarm bells for our learners, and it shouldn't. It absolutely shouldn't, no. because the subjunctive is one of these things that learners, when they get to a particular point in their learning, suddenly hear more about. And it's not something to fear. No, it not is at all. Very straightforward, because there are very, very clear rules as to when you use it. What I would suggest for now is just think of this as a piece of vocabulary, as a set phrase. Voglio che tutto sia perfetto. I want everything to be perfect. As we've explained before, we can't go into the nitty-gritty of each grammar point, but we do want to start exposing you to the grammar that we will be dealing with in the future. So, sia is a part of essere. It is the subjunctive form, the present subjunctive, and it's used instead of what we call the indicative, the normal verbs that we've learned up to now, when certain verbs or certain phrases trigger it. Sì. In this case, volere. Volere always triggers the subjunctive. When you've got two subjects. Oh, yes, of course. I want that you do something. Yes. Okay, I want to do something, fine. I want plus infinitive, but I want you to do something. We need to make that I want that you do something here. I want that everything be perfect, if you sì, like. Sì. Something like that. Ma andiamo avanti. Sì, sì, sì. Allora, abbiamo visto che Maria restituisce l'ombrello. Oh, that's a good word. Restituisce. She gives back, she hands back sì. the umbrella. E Riccardo dice, magari ci vediamo questa sera al concerto. Ah, magari is a nice Italian word. Sì, I love magari. Again, it's another word we use all the time in Italian. It means maybe, probably, but it also has another meaning, so we have to be careful. It also means if only. Okay. Ad esempio, magari avessi 20 anni. If only I had 20 years, but you're going into subjunctive territory Ooh. Again. We don't want to go there. Okay. Yeah. So when he says, magari ci vediamo questa sera al concerto, does this mean that he's hopeful that that may be the case? Yes, there is a probability. Probability. Sì. Okay. So, Mark, do you think Ricardo will go to the concert in the end? Well, Maria has certainly painted it in quite a good light. She says that there are these talented musicians and they'll be able to get everyone up dancing and so on. And she's even reserved a table. So, sì. Hopefully... Sì, e poi Riccardo dice, non posso dire di no a un invito così. I can't say no to an invitation like this. Things for once are looking up, but let's see how our story continues. And we're going to be seeing that just after our break. Okay. Interrompiamo questa trasmissione per una comunicazione importante. If you'd like to make faster progress with your Italian, don't forget that you can use the premium version of this course, which features video versions of the lessons, comprehensive lesson notes, and bonus listening materials. Allora, cosa aspetti? What are you waiting for? If you'd like to take your Italian to the next level, go to coffeebreakitalianplus.com. Okay, we're listening to the fourth episode of La Mia Estate, and we are just about to listen to our next section in which Mia and Anna are having a little chat about Riccardo and Maria. Ma hai notato anche tu? Ti riferisci a mia madre e tuo padre? Yes, they seem to be getting on quite well. Anche secondo me. Mia, dobbiamo escogitare un piano. Esco what? Sì, escogitare. Significa elaborare, inventare un piano. Sai, da quando è morto mio padre, mia mamma ha dedicato tutte le sue attenzioni a me e al campeggio. Well, I'd like my dad to be happy too. And there's the added bonus that it would mean more freedom for me. Ah, mi è piaciuta questa parte, Mark, perché iniziano i pettegolezzi. I pettegolezzi, the gossip. The gossip. Excellent. Sì, le ragazze infatti hanno notato che c'è qualcosa tra Maria e Riccardo e vogliono escogitare un piano. Escogitare. Sì, escogitare. A wonderful word. It means to concoct. Sì, they're mixing up a plan together. Sì, but esatto. It's tricky to pronounce. It's tricky, ma possiamo usare il sinonimo elaborare, inventare, anche architettare un piano. Architect a plan or something like that. Yes, imagine an architect coming up with the plan. Indeed. Okay, just to finish with, can we go through what Anna says for a moment? Sì, dice, sai, da quando è morto mio padre, mia mamma ha dedicato tutte le attenzioni a me e al campeggio. Okay, sai, which means you know. Sì. Since my father died, my mother has, if you like, concentrated all her attention on me and on the campsite. Sì, esatto, perfetto, ma... cosa dici? Andiamo avanti e sentiamo che cosa ha ancora da raccontarci la narratrice di questa bella serata. Ok, ascoltiamo. È una bella serata d'estate. Dopo aver provato un ottimo aperitivo italiano e ascoltato della buona musica, Riccardo e Maria chiacchierano un po'. Maria, gentile come sempre, si offre di aiutare Riccardo a cercare la casa dei sogni in Italia. Cala la sera, l'aria è frizzante e le luci fanno da cornice a una serata davvero magica. Maria e Riccardo cominciano a ballare spensieratamente, sotto gli occhi increduli di Mia, Anna e Giorgio. I tre ragazzi sperano che questo ballo sia l'inizio di qualcosa di speciale e hanno già in mente molte idee per dare una mano al destino. Okay, we finally get to relax a bit after all that's been happening in the campsite recently. Sì, è vero, ma che bella serata è stata. Sembrava quasi di essere lì, vero? Sì. Well, I think we would both like to be there for l'ottimo aperitivo italiano, eh? Sì, ma anche per la musica. Certo, certo. La sera d'estate. Okay. Ah, che bello. I noticed at the beginning a structure that we discussed earlier in season 2. And that was the dopo aver fatto qualcosa. Here they said? Dopo aver provato un aperitivo. Esatto. So after trying an aperitivo or having tried an aperitivo, they have a chat. And then Maria si offre di aiutare Riccardo a cercare la casa dei sogni in Italia. Eh sì. Maria offers herself, si offre, to help Riccardo to find his dream house in Italy. And watch the structure. Aiutare a cercare. So to help to do something. Sì. Aiutare a fare qualcosa. Ad esempio, noi possiamo dire aiutiamo gli studenti a imparare l'italiano. Un ottimo esempio. Grazie. I just watched there. Francesca said, aiutiamo gli studenti. We help the students a imparare l'italiano. To, if you like, learn Italian. And it's not aiutiamo agli studenti. No. It's just aiutiamo gli studenti. Okay, time is running out and we can't go through everything here, but just to make sure that you all got the picture, Maria and Riccardo are finally up dancing. And we have Mia, Anna and Giorgio who are looking at them, looking on somewhat bewildered. Sì, sì. E loro infatti sperano che sia l'inizio di qualcosa di speciale. They hope this is the beginning of something special. And guardate, un altro congiuntivo. Bravo, Mark. Well spotted. Sperare, like volere, is one of those verbs which can trigger the subjunctive. Sì, so sì. Speriamo che sia l'inizio di qualcosa di speciale. Speciale, sì, okay. Sì. Non vedo l'ora, Mark, di iniziare a parlare del congiuntivo nel futuro, nel ovviamente. Futuro, sì, sì, sì. Ma ora concentriamoci sui nostri personaggi e su quello che faranno Mia, Anna e Giorgio per dare una mano al destino. Dare una mano al destino, to give destiny a hand. Ok, andiamo avanti e ascoltiamo la scena del ballo. Va bene. Mia, ti va di ballare con me? Gli ospiti del campeggio sono un po' timidi. Forse se ci vedono ballare, anche loro balleranno. Sì, Giorgio. E poi mi piace molto questa canzone. Balli bene, Mia. Grazie, Giorgio. Ballo da quando sono bambina. Ma aspetta. Posso avere l'onore di un ballo con la mia bambina? Dad, don't do this now. I'm just dancing with Giorgio so that more people come onto the dance floor. I'm working. Ah, beh, se questo è lavorare. Cosa succede? Perché state urlando così davanti ai clienti? E lei, Riccardo, non si vergogna? Roba da matti. Oh, Mark, questa scena era iniziata così bene. E poi... Other things happened, yeah. That was a lovely pluperfect in there, Francesca, well done. Era iniziata. It had started so well. Okay, so what happens here is that Giorgio asks Mia if she'd like to dance with him, and he uses a really nice expression that our listeners can use in many situations. Sì, ti va di ballare. So ti va can be followed by D plus an infinitive, sì. Or just a noun, like a noun. Ti va un caffè? Sì, ti va un caffè o ti va di bere un caffè? Ti va di bere. So there's the D plus an infinitive or just ti va un caffè. Sì. Devo dire che mi andrebbe un caffè perfettamente. Ah, anche a me, più tardi, più appena tardi. Finita la registrazione. Ok. So they have a dance, and I think Giorgio is quite impressed with Mia's dancing. Yes, indeed. Lui dice, balli bene, Mia. And her response is something that, again, our listeners will be very familiar with by now. She uses the da. Ballo da quando sono bambina. So I've been dancing since I was little, since I was a child. But then something else happens. Sì, arriva Riccardo, il guastafeste. Guastafeste, yeah, the party spoiler, yeah. Sì, sì, sì. He wants to dance with his bambina, la mia bambina. But Mia's not having any of it. Indeed. Quite rightly so. Riccardo, the bella figura that Riccardo might have tried to get back is no, lost again, isn't un disastro it? Come sempre. Sì, per fortuna che arriva Maria a sistemare un po' le cose. Indeed, now she says, perché state urlando così davanti ai clienti? Why are you crying out like this, shouting out like this in front of of the customers? Because sì. Obviously she doesn't want her staff fighting in front of the customers. No, ovviamente. And she comes up with a cracking expression. Ah, roba da matti. Roba da matti. Literally this means stuff of mad people. Mad people, yeah. Sì. There are probably many ways to translate that. I think in Scotland we might say something like, that's pure bonkers or something like that. Aye. But we could also say that it's sheer madness. Sí. I think that conveys the idea quite indeed, well. Indeed. Okay, let's listen to our final section in which the narrator sums up how everyone's feeling at the end of this rather tempestuous episode. Oh, tempestuous. La serata purtroppo non è finita nel migliore dei modi. Riccardo, come al solito, non ha saputo controllare le sue emozioni e ha fatto l'ennesima brutta figura. Ora si sente imbarazzato e non sa come comportarsi. Mia è arrabbiatissima con suo padre e teme di poter perdere il lavoro al campeggio. Anche Giorgio ha la stessa paura e pensa di aver fatto qualcosa di sbagliato. Anna si trova in una posizione difficile, ma ovviamente è dispiaciuta per i suoi amici. Tutti vanno a dormire un po' amareggiati, ma domani è un altro giorno. Domani is indeed un altro giorno. However, before we get to domani, let's just talk a little about this final section. Okay. The evening did not finish in the best of situations, did it? No, perché Riccardo non ha saputo controllare le sue emozioni. Yeah, and he did that whole brutta figura as opposed to the bella figura. So he wasn't able to control his emotions. And this has left everyone a little bit angry and upset and perhaps fearful also. Sì, Mia infatti non vuole perdere il suo lavoro al campeggio. Certo. E Giorgio anche ha paura, di perdere il lavoro, di fare qualcosa di sbagliato. E ovviamente la situazione di Anna è un po' difficile, perché lei è loro amica, ma lavora anche al campeggio. Maria è la sua mamma. Sì, quindi è un po' complicata la situazione. Indeed, a complicated situation to end this episode of La Mia Estate. And that's where we're going to leave our discussion of what happens. But hopefully in the next episode, things will pick up. Sì. Speriamo di sì. Speriamo, sì. Okay, that's it for this episode of Coffee Break Italian. Of course, you've been listening to the main episode in which we present to you the soap opera. But in our bonus audio episode, we go through it line by line and explain every word in the soap opera to help you understand and, of course, to improve your Italian, getting to know the language that you already know even better and learning new language all the time too. That's part of our premium version of Coffee Break Italian, and you can find out more about that at coffeebreakitalianplus.com, where you can access the bonus audio, the lesson notes, and of course the video version of each lesson. And don't forget that you can follow Coffee Break Italian on social media. We are at Learn Italian on Twitter, and search for Coffee Break Italian on Facebook for our regular cultural and language challenges. And keep up with all of us here at Coffee Break on Instagram, where we are at Coffee Break Languages. And once again, just a reminder that on YouTube you can find more language learning videos to help you improve your Italian and indeed your other languages. Our YouTube channel is Coffee Break Languages. Don't forget to subscribe there. That's it for this episode. We hope you've enjoyed it as ever, and we will be back again soon with more. For now, grazie molte e arrivederci. Alla prossima, ciao! You have been listening to a production of the Coffee Break Academy for the Radiolingua Network. Copyright 2017 Radiolingua Limited. Recording copyright 2017 Radiolingua Limited. All rights reserved.